Pipoca, vinha colada, muito obrigada, caipirinha show. Uma aranciata, non zuccherata, mai negronino. Ui, amo bello, vamo presto, dai, vieni a casa, sta gente carisce, cago mangia, sono un filo d'aspetto, non puttana. Ui, amo bello, vamo presto, dai, vieni a casa, sta gente carisce, cago mangia, sono un filo d'aspetto, non puttana. Guarda, ben volentieri, fumo di quattro. Faccio la fila per la tequila, puro Mexico. Ui, gaccio, mi sto laggiù. Sì, tu. Ma insieme a nato sei tu. Laggiù. Ma c'è di sacuzio dopo da ba. Ai, ai, ai. Uè, laggiù, sto laggiù. Sì, tu. Mannaggia te, sei tu. Laggiù. Ma c'è di sacuzio dopo da ba. Fu da ba. Pina colada, molto obrigada, caipirinha show. Una aranciata, non zuccherata, ma il negro nino. Uè, governo, la sudanina, molto obrigada. Aspetto, dopo da ba! Uè, gaccio, mi sta laggiù! Sei tu! Ma insieme a nato sei tu! Laggiù! Ma ce ne sta così, dopo da ba! Buda ba! Ai, ai, ai! Buda ba! Io volevo riuscire una cosa! A tutti i posti che c'era una Buda ba! Un applauso per la nostra prima cantante, Miss Elenina Sau, curatore Toledo, from Salviano!